Però non appena loro, cioè non appena noi, e ancora una volta, ancora noi padri, manteniamo aperto questo canale di comunicazione, loro poi alla fine ci dicono tutto. Non ce lo diranno subito, perché prima lo devono metabolizzare, perché cominciano a pensare, se glielo dico che succede? Primo conto. Cercano il momento più opportuno. E allora uno se ne accorge, soprattutto quando, per esempio, a tavola, notoriamente lui, la cagnone, comincia a mettere la tavola, i bicchieri, sì, i piatti. Attenzione, che sta succedendo? Io mi preoccupo molto quando ci sono questi fatti. E infatti dico, ma che è successo oggi? Dico, cos'è capitato di così, diciamo, sciagurato? No, sai, così, però... niente, poi ne parliamo dopo, perché adesso c'è la mamma. Poi ne parliamo dopo. Allora, ne parliamo tra noi uomini, no? Si fa un consesso e si discute. Però attenzione, perché si faccia questo... Noi dobbiamo essere aperti mentalmente. Il discorso che si faceva stamattina, certo, se quando noi ci vediamo a pranzo e a cena, dico io non so, sto pensando ad altro, oppure fermate il gioco perché mi devo vedere il telegiornale, tanto non succede niente di catastrofico perché tutto ormai è un po' così, oppure devo scappare, non posso stare, o a cena devo fare altro, è chiaro, poi loro non ci cercheranno più. E cercheranno qualcun altro però, perché con qualcun altro si devono aprire. E allora magari si aprono con il compagno, si aprono con qualcun altro, e non è detto che questa sia la persona più adatta con cui relazionarsi. Quindi in questo noi, cioè, da un lato siamo depositari di una grossa responsabilità, ma siamo gli unici che realmente possono relazionarsi con loro, non alla pari, che il nostro rapporto non può essere alla pari. Anche questo è, come dire, un infingimento che molte volte viene anche trasmesso dallo strumento televisivo, no? Per cui ci sono, al di là, insomma, delle ipotesi delle famiglie allargate, per cui non si capisce più, insomma, che legame esista, però si trasmette un modello in cui tutto è alla pari e quindi si conversa, diciamo, da buoni amiconi, no? Ma non è così. Cioè, io sono aperto, tu con me devi parlare sempre e di qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa. Anche qui il modello maschile rispetto a quello femminile è diverso. Tra di loro, ad esempio, in un'età che poi comincia ad avere i suoi problemi dal punto di vista adolescenziale, difficilmente i figli maschi parlano della sessualità con il padre. Cioè, sono casi proprio rarissimi, secondo alcuni, cioè, forse è patologico, sono talmente rari che ci si stupisce. Per le figlie femmine è diverso con la madre. Ma su questo noi padri dobbiamo lavorare, cioè a un certo punto determinati argomenti si debbono affrontare, cioè non si può dire, beh vabbè, poi ne parliamo, poi ne parliamo, poi ne parliamo, dice, sai papà, aspettiamo un bambino. Ma non parliamo noi di gente che ha 40 anni, 25, 30 anni, di 16 anni, 15 anni. Cioè, ad esempio, dal punto di vista delle statistiche, le natalità delle ragazze tra 14 e 16 anni in due anni è aumentato del 48% in Italia, no? Dice nel Sudafrica, dice, ma forse non lo sanno. Ma bisogna essere pronti, e non è che bisogna essere pronti, attenzione anche qui, per un modello culturale diffuso ma sbagliato solo per le ragazze. Per il ragazzo è la stessa cosa, cioè sono due approcci diversi. Giovanna, ammonita con diffida, lo so che li facciamo partecipare. No, dico, meglio che intervengo, visto che sono questi, questa è la statistica, perché si aspetta a Rodolfo, meglio che... No, vabbè, lasciamo stare il povero Rodolfo. E allora, scusate, perché altrimenti poi, insomma, rubo troppo tempo. Sicuro. Il discorso che noi dobbiamo avere sempre presente è questo, cioè se noi non lavoriamo sulla prospettiva dialogica, dialettica con il nostro figlio, abbiamo perso in partenza. Ma questo è qualcosa che a noi costa tantissimo. Perché ci costa? Perché dobbiamo ascoltare magari talune cose che non ci fanno particolarmente piacere, mentre vorremmo sentire sempre zucchero e miele. Sai papà, oggi abbiamo fatto la gita, che è stato bello, abbiamo visto gli alberi, ho portato le castagne. No, non è questa, sì, qualche volta ci sarà, ma non è questa la realtà. Cioè dobbiamo essere pronti a recepire anche le indicazioni negative, perché appena noi cominciamo a storcere il naso, nostro figlio non ci dirà più nulla, perché tutte le volte che si verificherà un problema di questo tipo penserà a come gli abbiamo risposto l'ultima volta, e allora dirà, no, meglio che con lui non ci parlo, se la suonata è questa. E poi perché abbiamo bisogno di dedicare un tempo quantitativo e qualitativo, no? Oggi ciò in cui si rischia di perdere di più è la incapacità di ascoltare, e di ascoltare, dico, a parte il coniuge, ma i nostri figli, che hanno sempre da raccontare se noi siamo disposti ad ascoltare, ma già l'atteggiamento con cui noi ci poniamo nei loro confronti è emblematico. Cioè, se mio figlio dice: papà, ti devo parlare di una cosa che oggi è successa a scuola, e io sto col giornale così, con